edizione. E 14 minuti, buon martedì ancora da Anna Miglioratti, benvenuti a prima edizione e come sempre facciamo magari un po' di zapping TV prima di andare sulle prime pagine dei quotidiani. Non potevamo questa mattina non proporvi il ritorno sullo schermo ieri sera di Panariello. E basta con questo spread, basta, tanto secondo il calendario dei Maya noi il prossimo dicembre... Oh, calmi. Quindi un consiglio, accendete pure mutui, comprate roba rate tanto, però ora questa fine del mondo, no, perché con questa cosa della fine del mondo ora basta, eh? E prima la Chiesa Battista e poi i testimoni diceva sempre in questa cosa, ci buttano tutti su un monte, la fine di basta, questa volta deve essere vero, eh? No, se no piglio uno dei Maya, lo metto a sedere e gli dico, tengo tutti i mobili di qui, se viene la fine del mondo, beh, se non viene il mutuo, tu me lo paghi te. E allora con un sorriso di Panariello cominciamo questo martedì, gli aggiornamenti per chi è già in viaggio e poi le prime pagine dei quotidiani. Strade in diretta. Buongiorno dalla redazione di Strade in diretta, subito le condizioni meteo perché sono in atto deboli nevicate a quote basse tra Liguria e Piemonte sulle autostrade A6 Torino-Savona, A7 Milano-Genova, A26 dei Trafori, bisogna avere pneumatici invernali o catene a bordo. Piove su buona parte del centro e sul resto del nord Italia, sono previste nevicate già attorno ai 300 metri di quota sugli Appennini del centro Italia per le prossime ore. Nelle valli appenniniche tra Emilia e Toscana c'è anche la nebbia a cui prestare attenzione. Complice il maltempo, oggi il traffico sarà più intenso e rallentato del solito attorno alle città. Noi torniamo tra mezz'ora. Prima edizione. E allora eccoci con le prime pagine dei quotidiani, aperture diverse questa mattina, i temi che dominano però sono più o meno sempre gli stessi, da una parte la TAV, dall'altra la vicenda dei marò italiani in carcere in India e poi la politica con le parole, le avete sentite poco fa anche nel nostro GR24 di Bossi che ha parlato duramente di Monti. Allora vediamo che scelte fanno alcuni dei quotidiani, a cominciare dalla Repubblica, TAV stop alle violenze, questa l'apertura, l'appello di Napolitano che non incontra i sindaci del nord, il capo dello Stato garantire lo sviluppo, occupata a singhiozzo l'autostrada Torino-Bardonecchia, oggi dicevamo Napolitano sarà a Torino, sono previste manifestazioni e quindi si annuncia un'altra giornata che di certo non sarà facile. A fianco l'altra notizia di giornata che vi dicevo, duro scontro diplomatico, India e marò in carcere, l'Italia è inaccettabile, notizia che la Repubblica mette sullo stesso piano della Russia, dove c'è il pugno di ferro dopo il voto, l'opposizione in piazza con Putin che ordina gli arresti. Il Messaggero, apertura a tutta pagina sulla TAV, garantire lo sviluppo, il capo dello Stato sulla Val di Susa, basta con comportamenti inammissibili, Napolitano a Torino non vedrà i sindaci contrari all'opera, anche qui India, carcere per i due marò, la Farnesina dice inaccettabile. Sulla Stampa, Passera, TAV fondamentale, l'alta velocità porterà vantaggi per tutti, anche per la Val di Susa, un'intervista sul quotidiano torinese al ministro delle infrastrutture che dice ora basta interessi particolari, le compensazioni sono state stabilite con le comunità locali, l'opera è utile e strategica per il futuro del nostro paese in Europa, l'alta velocità porterà vantaggio a tutti gli italiani, anche a quelli che abitano in Val di Susa, basta violenze, bisogna garantire lo sviluppo, le parole anche del capo dello Stato. Sulla Repubblica tra l'altro tralasciato, ma c'è un intervento importante di Roberto Saviano, proprio sulla TAV, che apre un'altra questione: le mani della mafia sui cantieri, dice Saviano. Tutti parlano di TAV, ma prima di ogni cosa bisognerebbe partire da un dato di fatto. Negli ultimi 30 anni l'alta velocità è diventata uno strumento per la diffusione della corruzione e della criminalità organizzata, un modello vincente di business perfezionatosi dai tempi della costruzione dell'autostrada del Sole e della ricostruzione post terremoto in Irpinia. Un'altra questione sollevata questa da Roberto Saviano. Il Corriere della Sera sceglie un'apertura diversa e a centro pagina la vicenda TAV, con l'intervento di Napolitano, basta violenze, serve sviluppo, perché ad aprire la prima pagina del Corriere della Sera invece la vicenda dei Marò in India, che restano in carcere. Ira dell'Italia, così titola il Corriere della Sera. La Farnesina riesce a evitare la cella con detenuti comuni. Poco fa, tra l'altro, notizia dell'ultima ora, i Marò italiani sono stati messi in carcere ma in isolamento da soli. La trattativa del sottosegretario De Mistura, che anche noi vi abbiamo raccontato e che è andata avanti per tutta la notte, che sta andando avanti anche in queste ore, complice anche ovviamente il fuso orario, trattenuti in una palazzina separata, restano in uniforme, ci dice ancora il Corriere della Sera. Il commento affidato a Giuseppe Sarcita recita così: il risultato amaro di una linea debole. Così il Corriere della Sera. Corriere della Sera che a fianco riporta la notizia che noi vi abbiamo dato invece ieri mattina: Bersani sotto accusa per il caso Palermo dopo la sconfitta shock di Rita Borsellino alle primarie, il segretario del PD no a rese dei conti. Ma è a centro pagina del Corriere della Sera l'altra notizia politica di giornata di cui parlavamo anche noi prima: Bossi minaccia Monti, il ministro dell'interno, così istica l'eversione. Le parole le avete sentite poco fa del leader leghista: il Premier al nord rischia la vita. Parole rischiose, niente più indulgenza, il duro commento di Pierluigi Battista su il Corriere della Sera. Passo indietro parziale di Bossi poi in serata, che si vede questa mattina anche sulla prima pagina della Padania, che aggiusta un po' il tiro, perché il titolo è questa mattina: il nord spazzerà via Monti, che non è esattamente rischia la vita, questa la scelta della Padania questa mattina. Altre notizie, allora, centro pagina della Repubblica: fisco la stangata di marzo, buste paga più leggere, scattano le addizionali IRPEF. È la stangata di marzo perché ci sarà il conguaglio dell'aumento delle addizionali regionali IRPEF 2011, deciso retroattivamente dal governo Monti a dicembre dell'anno scorso. Fatto sta che le buste paga di marzo saranno veramente magre, una famiglia media pagherà fino a 371 euro, quindi oltre 300 euro in meno nelle buste paga del prossimo mese. Taglio centrale del Messaggero, anche qui puntato a temi tra il politico e l'economico: 1 milione di case fantasma scoperte dall'Agenzia per il Territorio valgono 500 milioni di tasse, così il Messaggero. Lo trovate, lo sceglie di metterlo in grande evidenza, la notizia la trovate anche sugli altri quotidiani. Aumentano le entrate fiscali del 2011, tendenza positiva anche a gennaio 2012, e nuove tasse si spera di averle proprio dalle case fantasma scoperte dall'Agenzia per il Territorio. Allora, non vi ho ancora letto l'apertura questa mattina invece de Il Sole 24 Ore, che ci dà un quadro di intanto come sta andando la situazione anche dal punto di vista economico e finanziario per l'Italia. Mercati in allarme su Madrid, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. I BTP più sicuri dei bonus, lo spread spagnolo sui Bund supera ancora quello italiano. Siamo davvero al testa a testa ormai con la Spagna, sempre più volte i BTP vanno meglio. L'Unione Europea teme il deficit è la grande deriva dei conti ora della Spagna più che dell'Italia, ma il premier Rajoy ribatte: è una nostra scelta sovrana. Taglio centrale invece del Sole 24 Ore dedicato alla TAV, con Napolitano che dice basta violenze. Vi segnalo anche, per quanto riguarda il Sole 24 Ore, magari ne parleremo anche più avanti in GR24, che oggi in edicola trovate anche l'anno che ha cambiato la vita degli italiani, tutti i contenuti dell'ultimo anno in un libro che troverete oggi allegato in edicola a Il Sole 24 Ore. Ancora qualche segnalazione? Sì, abbiamo tempo ancora un paio di minuti per qualche segnalazione. Allora già vi dico che sui quotidiani si comincia già a parlare oggi il 6 marzo dell'8 marzo della festa delle donne. Ne parla Gramellini, Libera Donna in Libero Stato su La Stampa, se ne parla anche sul Corriere della Sera. Se il fattore D resta un accessorio, questo è il titolo dell'articolo firmato da Maurizio Ferrera. Sul piano pratico la situazione non è rosea, l'agenda donne si arricchisce, così scrive il Corriere della Sera. E c'è anche un intervento della commissaria europea Reding con Bruxelles, che avverte pochi progressi sulle quote rosa, ora serve una legge che sia europea, un dibattito che si apre. Mancano due giorni all'8 marzo e quindi il tema comincia ad esserci già sui quotidiani. Uno sguardo anche alla Gazzetta dello Sport, un'intervista esclusiva questa mattina in prima pagina. C'è un'intervista a Mario, il principe azzurro, a Mario Balotelli. Dice tra l'altro: amo questa nazionale, sposerò Raffaella, non meritavo l'esclusione, ho accettato il codice etico, ho mandato un sms a Prandelli, Mancini mi consiglia le nozze, ebbene, dice Balotelli, lo accontenterò in Europa. Poi aggiunge: tifo Ibra e Milan. Così la Gazzetta dello Sport. C'è però ancora un tema che ancora si dibatte, ancora si va avanti a dibattere dopo i funerali di Lucio Dalla. La Stampa, ad esempio, oggi scrive: dalla privacy senza maschere, la scelta di tenere per sé i propri cari l'intimità più importante va tutelata. E allora anche noi torniamo a parlare ancora di questa questione e di Lucio Dalla. E lo facciamo tornando sulle polemiche che ci sono state dopo i funerali e dopo l'intervento in chiesa di Marco Alemanno. Ho scelto io di presentarlo come amico e collaboratore di Lucio Dalla e non come compagno. A parlare così è Benedetto Zacchioli, consigliere comunale bolognese, PD, teologo, gay dichiarato, uno degli amici più intimi del cantautore, che prova ora a smorzare ogni polemica sul caso. Lo ha fatto intervistato dalla nostra Cristina Carpinelli. Lucio Dalla, la sua omosessualità, per quanto poi risaputo, non l'ha mai dichiarata. Neanche a me, io non l'ho mai chiesto. Quindi era una cosa su cui aveva delle reticenze, aveva... Ma sai, reticenze, secondo me era più avanti di tutti quanti siamo noi. Cioè, la cosa non era presa in considerazione, non lo so, perché è la stessa cosa che avviene a me quando mi chiedono: ma sei etero, sei gay? Io dico: ma non capisco la domanda, cioè, proviamo a rifarla. Nel senso, poi va bene, io sono gay dichiarato, un altro discorso, ma cioè, però proprio mi sembra che Lucio fosse molto più avanti. Cioè, la città di Bologna come sta reagendo adesso a tutta questa storia che si è sollevata attorno alla messa? Allora, la città, guardi, a me hanno chiesto poi adesso in serata che cosa ne pensi, dico che alla scompostezza di alcune dichiarazioni, leggi Grellini, Annunziata, Busi e basta, mi sembrano questi, il trittico strepitoso, che se uno poi ne dipinge anche, ne viene fuori un quadro, insomma neanche Picasso sarebbe riuscito a pensare, ma a prescindere, a quella scompostezza risponde la elegante compostezza della città nel dare l'ultimo saluto a Lucio. Quindi lei dice, cioè di fatto ci sta che in un'omelia, in una chiesa, il compagno di Lucio Dalla venga presentato come collaboratore, che non ci sia nulla di ipocrita in questo? Allora, dunque nell'omelia non si è parlato di collaboratore, ne si è parlato prima dell'intervento di Marco Alemanno, che appunto ha detto... cioè è stato presentato come l'intervento del generale Rondini, dell'amico e collaboratore Marco Alemanno. Questa definizione l'ho scritta io, non c'entra niente Santa Romana Chiesa. L'ha scritta lei, che è gay, e quindi ha scelto lei di fare... Sono gay, sono amico di Lucio Dalla, ho organizzato i funerali, sono un seminarista laureato, un ex seminarista laureato in teologia. E chissà se la polemica, se la discussione così si chiuderà. Nel frattempo questa è l'intervista della nostra Cristina Carpinelli. Solo una piccola pausa e poi riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. E ci aspetta Daniele Biacchessi. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 6 marzo. 10 anni fa il terrorismo brigatista uccideva Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare. Come sapete, da ieri Italia in Conto Luce dedica la sua programmazione dell'intera settimana alla figura di Biagi. Cristina Carpinelli ha intervistato per oggi Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione parlamentare su strage e terrorismo, che dopo l'omicidio del professor Massimo D'Antona il 20 maggio del 99 aveva messo in guardia le istituzioni sulla pericolosità dei brigatisti. Noi avevamo ricostruito che gli uccisori di D'Antona non erano nuove Brigate Rosse, ma era una filiazione delle Brigate Rosse PCC, e avevamo addirittura prospettato la possibilità che, siccome nei gruppi che erano stati processati e condannati per gli omicidi Conti, Tarantelli e Ruffilli non c'erano stati collaboranti, era possibile che qualche membro del gruppo fosse sfuggito alle indagini e quindi avesse poi ricostruito le Brigate Rosse. E scrivemmo anche che questa ricostruzione era avvenuta lungo l'asse Roma-Firenze. Non a caso la Gallesi e la Lioci incappano dalla polizia ferroviaria sul treno Roma-Firenze. Non c'era niente di preordinato. E quindi è una casualità che ci ha consentito poi di capire tutto, perché sennò avrebbero ucciso ancora. Secondo lei perché non è stata analizzata bene la vostra relazione? Perché non si è riusciti a proteggerlo il professor Biagi? Le varie procure non si trovavano d'accordo su quale lettura dare al nuovo fenomeno. In realtà ci furono tensioni anche di competenza che poi durarono anche dopo Biagi, perché Bologna, Roma, e in realtà poi solo dopo che sul treno Roma-Firenze la Lioci e Gallesi incapparono nella polizia ferroviaria e si decretò il palmare della Lioci, si riuscì a capire innanzitutto che i due omicidi erano dovuti allo stesso gruppo eversivo e che quel gruppo eversivo aveva quelle origini, diciamo fiorentine, romane, che la Lioci era stata indagata sull'omicidio Conti e però non avevano trovato i riscontri. Ci sono anche, come diceva lei, delle questioni di gestione, no, del caso, cioè tra Udine, poi viene portata un pool antiterrorismo a Bologna, però con un'esperienza abbastanza risicata. Sì, sì, diciamo, noi quella è una vicenda dove secondo me il fatto di non avere una procura nazionale antiterrorismo come abbiamo la procura nazionale antimafia l'abbiamo pagato. Senta, Presidente, io le chiedo questa cosa: secondo lei il professor Marco Biagi è stato ucciso veramente per la questione dell'articolo 18? Bah, direi di sì. In realtà loro puntavano contro il mondo del lavoro e anche D'Antona, no, era, diciamo, il target uguale. Subito dopo l'omicidio D'Antona gira d'Italia per parlare di un nodo toscano delle vecchie e nuove Brigate Rosse, e il nodo toscano c'era, cioè io avevo visto questa costante, c'era questo aggancio fra Roma e Firenze. Per esempio, uno dei vari amanti della Lioci era stato uno di quelli che erano stati presi su un motorino che stavano per fare una rapina e che immediatamente si dichiararono prigionieri politici. Era Italia in Conto Luce, la prima edizione di quest'oggi 6 marzo. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Minuti, seconda parte di prima edizione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Allora, parliamo anche noi di TAV questa mattina, che è davvero uno dei temi che rischia di essere nuovamente caldo nel corso della giornata, perché ieri, lo sapete, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto di fermarsi con comportamenti che ha definito inammissibili contro la TAV, ma la mobilitazione non si ferma. Oggi Napolitano sarà a Torino e oggi a Torino ci sarà un presidio proprio in occasione della visita del capo dello Stato. Napolitano, che è un uomo tutto d'un pezzo, pagherà sul piano della credibilità e del tempo il fatto di non incontrare i rappresentanti dei comuni della Val di Susa. Così ha parlato intanto ieri sera alla Zanzara su Radio 24 il premio Nobel Dario Fo, che ci ha detto di essere impressionato dal comportamento del governo per non aver risposto a una lettera firmata da 360 intellettuali sulla TAV. Allora, Se Napolitano oggi non incontrerà i sindaci pro e contro, noi in qualche modo ci abbiamo provato, lo ha fatto per noi Anna Marino, ha messo a confronto due opinioni diverse. Allora cominciamo con Sandro Plano, ex sindaco di Susa, il nuovo presidente della nuova comunità montana unica di Val di Susa, Val Chisone, Val Sangone, leader istituzionale del movimento contro la linea ad alta velocità. Aspettiamo un incontro con il governo, non con tecnici, per fare il punto di questa vicenda, perché mi sembra che la confusione sia totale. Hanno già cambiato 4-5 volte il tracciato, non su nostra richiesta ma su iniziativa loro, e questo credo che si debba evidenziare. Ci sono anche dei bonus fiscali in ballo, è un piano che sembra arrivi addirittura a 50 milioni di euro. Sono tutte chiacchiere, sono già stati promessi 300 milioni di euro, mai nessuno ha visto neanche l'ombra di un piccolo finanziamento. Voi proponete un rinvio dell'opera? No, noi proponiamo un momento di riflessione, l'ennesimo momento di riflessione, perché che ne dica il commissario straordinario, che sono state fatte 186 riunioni, se alla fine di queste consultazioni i pareri sono ancora molto distanti, vuol dire che non c'è stata una soluzione e le ragioni per fare quest'opera non hanno convinto. E se si andrà avanti? Il governo ha il diritto di farlo, noi abbiamo il diritto di protestare. Per quanto riguarda le modalità della protesta, condannate quelle diciamo più estreme? Certamente noi siamo sempre stati per una protesta legale e pacifica e non siamo certamente quelli che vogliono tirare sassi, anzi condanniamo questi atteggiamenti. E così dunque Sandro Plano, ex sindaco di Susa, presidente della comunità montana. Per il fronte del sì alla TAV, invece, Mauro Meneguzzi, che è anche lui sindaco della Val di Susa e sindaco di Salice Dulzio. È giusto che il territorio abbia dei bonus, abbia delle forme di agevolazione fiscale. Noi addirittura daremo proporre l'istituzione di una zona franca per la durata di tutto quello che è il cantiere della TAV, di modo che l'Alta Valle di Susa, che è un territorio d'eccellenza nel campo degli sport invernali e della mountain bike estiva, venga equipata a quella che è Livigno, e con questa forma di compensazione si possa sopportare quelli che saranno obbligatoriamente e inevitabilmente i disagi e le proteste che io ho proprio paura non termineranno domani. Per il fronte del sì c'è un allargamento in vista? Diciamo che c'è una parte di valle che ha sempre detto soprattutto no a questo modo di protesta. Io ritengo invece personalmente che le scelte di una grande infrastruttura che interessa sia il territorio nazionale che tutta l'Europa spettino principalmente agli enti preposti, quindi al governo, alla regione. C'è un osservatorio che ha lavorato molto bene, che ha lavorato per tantissimi anni e in quella sede tutti i sindaci hanno avuto modo di intervenire regolarmente. L'osservatorio ha modificato il progetto, ha fatto degli aggiustamenti, si è reso conto di alcune criticità. A questo punto, secondo me, non è più un momento di buttare via dei soldi e del tempo. Adesso inizia il momento che l'opera deve partire. Dei finanziamenti sono già arrivati alle comunità della valle? No, al momento non è ancora arrivato nulla. Certamente ci fosse più unitarietà di intenti sarebbe anche più facile, noi e tutta la valle avrebbe un potere contrattuale differente. Se non altro però l'Alta Valle è molto compatta, in Alta Valle c'è una stragrande maggioranza di sindaci che concordano sul fatto che l'opera deve andare avanti e il territorio deve essere giustamente compensato, proprio deve essere una forma di ammortizzatore sociale che ci aiuta a rimanere il territorio d'eccellenza, il territorio che ha ospitato le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e non il territorio che ci fanno vedere sui media che spaventa veramente i flussi turistici. E così dunque il sindaco di Salice Dulzio, che rappresenta invece il sì alla TAV. Discussione quanto mai aperta, dicevamo oggi Napolitano a Torino. Staremo a vedere che succederà. Voltiamo pagina però, perché c'è un'altra notizia che incombe in queste ore, vale a dire quella che riguarda la sorte dei marò italiani in India. Lo sapete, ieri i giudici indiani hanno deciso per l'arresto, ma l'Italia va avanti nella sua battaglia. Il sottosegretario agli esteri Stefan De Mistura è stato categorico parlando a Notte Inoltrata, ha detto che non saranno detenuti in una prigione comune, si parla di una soluzione ponte, in questo momento sono in una palazzina isolata della prigione indiana, però continuano ad indossare la loro divisa, e questo è un particolare molto importante, possono disporre di un telefono, ma La vicenda ovviamente non è chiusa. Vi dicevo prima in rassegna stampa che sul Corriere della Sera oggi il commento di Giuseppe Sarcina titola così: è il risultato amaro di una linea debole. Fatto sta che cosa potrebbe succedere. Oggi peraltro ci sarà anche un'altra udienza importante per un'altra causa in corso che riguarda questa vicenda, vale a dire all'Alta Corte di Cochi, sulla territorialità dell'incidente e quindi il diritto internazionale. Per capirne di più io saluto un ospite questa mattina, il professore di diritto internazionale alla Lewis, Natalino Ronzitti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima le faccio subito una domanda. Che ne pensa della soluzione ponte trovata da De Mistura nella notte? Vale a dire, va bene, ve li consegniamo, li portate in carcere, ma restano separati e con le divise. Beh, è una soluzione, diciamo, transitoria, ma ovviamente inaccettabile da parte italiana, perché questi debbano essere liberati in quanto che l'India non ha giurisdizione sul caso. Questo è stato detto da parte italiana più volte. A mio avviso la giurisdizione non c'è, l'ho detto più volte perché, ripeto, questi godono di immunità funzionale in quanto sono organi dello Stato. Qualora ci fosse stato un illecito, questo è imputabile all'Italia e non è imputabile ai Marò, così funziona il diritto internazionale, e anche perché questi... Quindi non c'è responsabilità personale? Sì, immunità funzionale si chiama, certo, immunità funzionale, che è diversa da quella dei diplomatici. Immunità funzionale perché l'atto da essi compiuto è stato compiuto per conto dello Stato. Prima questione. Seconda questione, vanno accertati i fatti, perché sussistono divergenze per quanto riguarda il loro svolgimento, e è necessaria un'inchiesta internazionale condotta in modo imparziale. E quindi non solo dagli indiani. Le chiedo solo un attimo, perché abbiamo gli aggiornamenti sulla viabilità, per chi a quest'ora, sono le 6:46 minuti, è già in viaggio, però poi continuiamo a parlarne. Prima edizione. Allora, professor Ronzitti, parlavamo dei Marò, ormai a questo punto sono in carcere, vedremo che succederà sul fronte invece del diritto internazionale, però, perché è qui che veramente si gioca la partita. Oggi il Corriere della Sera scrive che questo è il risultato amaro di una linea debole. È d'accordo, si poteva fare di più tecnicamente? Ma io credo che due istituzioni che dovevano essere mosse sono la NATO e l'Unione Europea. L'Unione Europea, a quanto sembra, Lady Ashton ha detto, questo è un affare esclusivamente italiano. No, non è un affare esclusivamente italiano, perché nell'Oceano Indiano ci sono flotte sia della NATO sia dell'Unione Europea in funzione antipirateria. Questo è un servizio che viene dato a tutta la comunità internazionale. Quindi il fatto di avere a bordo delle navi italiane team armati militari, non dei semplici contractor, in funzione antipirateria, è un servizio che viene reso a tutta la comunità internazionale. E altrimenti, quindi lei dice, il servizio lo facciamo anche ad altre navi europee, quindi ora tutta l'Europa deve intervenire. L'incidente, ammesso che ci sia stato, rientra in un'operazione internazionale più ampia. È questo il concetto? Sì. Professor Ronzitti, è questo il concetto? Sì, rientra in un'operazione internazionale più ampia. Ovviamente ci sono le due flotte ed altre flotte che sono presenti nell'Oceano Indiano che intervengono in funzione antipirateria. Qua si tratta di qualcosa che noi abbiamo fatto in più rispetto a quello che hanno fatto gli altri, e questo più deve essere corroborato, ripeto, da tutta la comunità internazionale. Ma c'è margine perché la NATO e l'Europa ancora intervengano in attesa della decisione a Cochi? Io credo di sì, perché poi una soluzione si trova sempre. La storia ci insegna che una soluzione può essere sempre trovata a questo incidente. Ma intanto vediamo cosa dirà la Corte per quanto riguarda la giurisdizione internazionale, e il nodo fondamentale è questo. L'aspettavamo, dovrebbe arrivare in queste ore almeno una prima decisione, forse si riserverà, vedremo che succederà, però l'aspettavamo in queste ore la decisione dell'Alta Corte di Cochi, almeno un primo pronunciamento. Beh, ci risentiremo però nel corso della mattinata, perché cercheremo di capire anche che succederà dunque. Grazie nel frattempo per essere stato con noi, professore di diritto internazionale alla Lewis, Natalino Ronzitti. Grazie, buona giornata. Arrivederci, buongiorno. E buona giornata naturalmente anche a tutti voi. Carmelo Lauricella, Viola Bottoni restano con noi, perché tra pochissimo c'è GR24 per le ultime notizie. Noi ci risentiamo tra poco. Buon martedì da Anna Migliorati.